magari dico due parole perché giustamente mi è presentato come consulta di audit sul debito, ma non è come dire comune di Napoli, quindi magari iniziamo un attimo a presentarci. Allora, il discorso un po' del debito pubblico di cui parliamo adesso nasce un po' da quello che comunemente osserviamo, cioè quando chiediamo servizi, è maggior ragione oggi, mentre chiediamo risorse per poter uscire dall'emergenza, quello che ci viene risposto è che non ci sono soldi. E per la verità io vengo da un'esperienza che ci siamo posti da subito, il problema di come l'esperienza è quella di massa critica. A Napoli, ma subito il problema di come i cittadini potessero avere un potere decisionale maggiore sulla città, perché abbiamo osservato che molti spazi continuano a rimanere escludenti, continuano a rimanere per lo più privati, e questo deriva molto spesso proprio dal fatto che comune, le istituzioni pubbliche devono soprattutto pensare a come fare cassa. Proprio per il problema menzionato sopra, cioè la mancanza di soldi. Allora, noi siamo partiti da subito a riaprire degli spazi con i beni comuni, tra cui l'asilo Filangieri, che è quello che hai menzionato tu prima, ma tanti altri, lo Scugnizzo Liberato, il Giardino Liberato di Mater Dei, ma non provo neanche a nominarli tutti, perché ovviamente ne dimenticherei sicuramente qualcuno. Però il discorso fondamentale è come possiamo insieme riprendere decisione sulla città, perché ovviamente ci dicono che le istituzioni sono democratiche, ma finché poi alle domande dei cittadini loro devono rispondere che non hanno soldi, allora poi è difficile immaginare che questa democrazia si diventi una cosa concreta e attiva. Allora, quello che noi subito abbiamo provato a fare come massa critica è stato quello di cambiare queste istituzioni, precisamente quello di immaginarcene di nuove. La prima cosa che abbiamo fatto è stata immaginarci gli strumenti che consentissero alla comunità di gestire degli spazi in modo aperto, in modo che fossero aperti a tutti e a tutte per aprire dentro questi spazi intanto servizi e attività sociali, ma anche attività semplicemente di relazione orizzontale, non competitiva e che non sia necessariamente una relazione di mercato. E sono stati anche spazi dove si è fatta cultura e si fa ancora cultura, ovviamente lockdown permettendo, e che insomma sono stati restituiti alla città. Però dopo il problema degli spazi abbiamo immaginato queste nuove appunto istituzioni cittadine, la prima in ordine semplicemente cronologico, diciamo che sono nate insieme, ma la prima in ordine cronologico è stato l'Osservatorio sui beni comuni della città di Napoli, che è un organo composto da società civile, quindi persone, attivisti e attiviste della rete dei beni comuni, ma anche ricercatori e ricercatrici, studiosi e studiose, che in qualche modo hanno il compito di dare un parere alla giunta della città su alcune questioni che riguardano i diritti fondamentali, la partecipazione ai beni comuni. E successivamente, con uno scopo molto simile, cioè quello di far partecipare effettivamente, di discutere pubblicamente le questioni che riguardano la città, si è creata anche la consulta di audit sul debito. La consulta di audit sul debito non l'abbiamo inventato noi, nel senso che ci sono state tante esperienze precedenti, però appunto siamo riusciti a portare a Napoli questo tema di come discutere pubblicamente questo che normalmente diventa uno spettro semplicemente per cui in città non ci stanno soldi. Ci troviamo adesso a parlare di debito, ovviamente abbiamo invitato anche Marco, che ringrazio, Marco Bersani, perché in questo momento a Napoli intanto ovviamente ci troviamo nella condizione di dover rispondere a una crisi, quindi di recuperare risorse pubbliche, e c'è stata da pochissimo una delibera molto importante che riconosce come illegittimi alcuni debiti. Illegittimi nel senso che non sono stati contratti nell'interesse della città, non sono stati contratti nell'interesse degli abitanti. E questa delibera è stata proprio dovuta a quel processo di cui ho parlato prima, cioè la possibilità per cittadini, cittadine, abitanti di auditare, quindi di controllare il debito, con chi siamo in debito e per quale motivo, che poi è l'inizio di ogni possibile discussione pubblica sulle risorse della città. E questa delibera appunto ha avuto come sfondo il lavoro di questa consulta popolare di Audit, composta da persone del territorio napoletano, quindi dei movimenti di Napoli, da cui è stata fortemente voluta, e anche da persone esterne che insomma sono venuti a prestare insomma le proprie competenze e le proprie conoscenze. E noi di questa delibera più specificamente parleremo su questa stessa trasmissione, su questa stessa radio, domenica pomeriggio alle 16, con Vincenzo Benessere, che è un altro componente della consulta di Audit sul debito pubblico. Però per ora insomma ci sembrava interessante fare intanto un'introduzione, quindi inizierei a chiedere a Marco che cos'è questo problema del debito nelle città e insomma con chi siamo in debito, perché non ci sono questi soldi per far funzionare i servizi e la ripresa in città. Sì, intanto ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Perché non funzionano i servizi? Intanto i servizi non funzionano da tempo e non funzionano esattamente perché più che il debito c'è la trappola del debito, come normalmente la definiamo, che è una trappola un po' particolare. Il debito è stato dichiarato come problema prioritario di tutto il paese, quindi di tutti i cittadini, nel 2011, quando a un certo punto dall'Unione Europea è arrivata una lettera all'allora governo Berlusconi dicendo che il debito pubblico italiano era troppo alto e quindi occorreva intervenire. Di fatto tutte le misure che sono state messe in campo da allora ad oggi da differenti governi, quindi anche da governi di colore diverso, sono tutte state annunciate come misure necessarie a ridurre il debito, e in realtà poi abbiamo visto che sono state invece tutte misure che non hanno ridotto il debito da una parte, ma che soprattutto hanno consentito tagli alla spesa pubblica, tagli di servizi, privatizzazione di molti servizi, svendita del patrimonio pubblico locale, deregolamentazione dei contratti di lavoro. Allora, lì si rende evidente come non sia il debito un problema, ma che in realtà il debito sia stato utilizzato come alibi per poter invece mettere sul mercato tutto quello che prima era fuori mercato, e cioè i diritti, e cioè i servizi pubblici, i beni comuni, e anche la funzione pubblica e sociale degli enti locali. Questo è tanto più vero se analizziamo un fatto. Negli ultimi 20 anni, parliamo dal 1999 ad oggi, quando è stato istituito il patto di stabilità. Il patto di stabilità è una misura con la quale tutti gli enti, dallo Stato alle regioni, alle province, ai comuni, devono considerare l'equilibrio finanziario dei propri conti come la priorità massima, cioè come il loro compito principale. Bene, dal 1999 ad oggi quasi tutte le misure messe in campo sono state applicate sugli enti locali. Eppure, se andiamo a vedere il debito pubblico nazionale, scopriamo che i comuni contribuiscono a quel debito per una parte che riguarda l'1,8%, cioè quasi zero. Allora la domanda è: perché, se i comuni contribuiscono così poco al debito pubblico, e perché se il debito pubblico va ridotto drasticamente, tutte le misure vengono applicate ai comuni e non ad altri livelli? Perché, come dicevo prima, il debito in realtà serve per spingere sulla privatizzazione dei servizi e sulla mercificazione dei beni comuni. Questo è tanto più vero perché oggi, se ragioniamo sul fatto di dove risiede la ricchezza sociale delle comunità, scopriamo che risiede nei comuni. I comuni sono quelli che hanno il territorio, sono quelli che hanno il patrimonio pubblico, sono quelli che hanno i servizi pubblici locali, sono quelli che hanno i beni comuni. Allora, se io devo mettere sul mercato tutte queste cose, cioè farle diventare elementi da cui ricavare profitti, ricavare valore finanziario. Se metto i comuni con le spalle al muro dal punto di vista dei conti, avrò sindaci che volenti o nolenti spingeranno per privatizzare tutto perché non hanno le risorse adeguate. Come è avvenuta questa spogliazione? È avvenuta attraverso diversi passaggi. Nel 1999 le prime misure sono state fatte nel senso di ridurre i lavoratori degli enti pubblici. Contemporaneamente è partita una campagna di stampa che continua a ondate fino ad oggi, in cui si è cominciato a dire che il pubblico non funziona, quindi si riduce il personale da una parte, dall'altra si comincia a dire: guardate, il pubblico non funziona. Il personale viene ridotto in diverse forme. Prima, quando andava in pensione un lavoratore, veniva sostituito da una nuova entrata. A un certo punto si è deciso che ogni due lavoratori che andavano in pensione il comune ne poteva assumere uno, poi è diventato uno ogni cinque, finché c'è stato il vero e proprio blocco del turnover, cioè chi andava in pensione non veniva sostituito, e ovviamente questo ha pregiudicato molta della qualità che invece i comuni potevano garantire fino ad allora nei servizi. Questo ha anche comportato, per esempio, un dato che oggi è lampante, che i lavoratori dei comuni oggi hanno un'età media intorno ai 55-60 anni. Si può capire bene che se i lavoratori del comune sono tutti dai 50 anni in su, è molto più difficile, per esempio, rinnovare anche i metodi, le pratiche, gli strumenti che si utilizzano all'interno di un'amministrazione comunale. E questo ovviamente pregiudica la qualità. In una seconda fase il patto di stabilità è stato concentrato sul blocco degli investimenti, cioè a un certo punto i comuni non potevano più indebitarsi, cioè fare dei mutui, per poter realizzare delle opere. Qui chiariamo un concetto: il debito di per sé non è una cosa negativa, perché se io accendo un mutuo per costruire un ospedale, costruire una scuola o per realizzare un parco, è chiaro che mi sto indebitando, ma il debito serve a migliorare la qualità della vita della comunità che io amministro. Quindi il problema non è fare debito o non fare debito, il problema è perché si fa debito, se quel debito è giusto o ingiusto, se quel debito è legittimo o illegittimo. Nella seconda fase, dicevo, i comuni è stata bloccata la possibilità di fare mutui per poter fare opere. Anzi, è diventato che le amministrazioni più virtuose sono quelle che facevano investimenti zero. Perché? Perché non indebitavano il comune. Peccato che se io non faccio investimenti, poi scopro che le strade diventano un colabrodo, che i fabbricati comunali cadono a pezzi perché non faccio la manutenzione straordinaria, eccetera, eccetera, eccetera. In una terza fase il patto di stabilità è servito addirittura a ridurre la spesa corrente, quella ordinaria, e quindi ha messo in discussione, in difficoltà, anche lo stesso funzionamento quotidiano degli enti locali, perché i comuni non avevano soldi a sufficienza per garantire non l'innovazione, non le cose nuove, ma addirittura l'esistente. E questo, per esempio, ha dato il via a processi di cementificazione straordinaria. Perché? Perché una delle entrate possibili per i comuni era quella derivante dagli oneri di urbanizzazione, cioè quando uno costruisce paga all'ente pubblico una non capisco se mi sentite. Da dove eravamo? Ora ti sentiamo. Sì. Dicevo che nella terza fase il patto di stabilità ha ridotto le spese correnti, obbligando i comuni a mettere sul mercato gran parte del territorio. Perché? Perché se io permetto di costruire, ottengo degli oneri di urbanizzazione, cioè delle entrate per fare i servizi, e quindi si è realizzato addirittura il ribaltamento del ruolo del sindaco, cioè mentre fino a qualche decennio fa erano i costruttori che facevano la questua nei comuni per poter costruire, in questi anni sono stati i sindaci che facevano la questua dai costruttori per dire: vi prego, vi metto a disposizione il territorio, costruite in modo che a me entrano gli oneri di urbanizzazione, con quelli posso far andare avanti la macchina comunale. Tutto questo che cosa ha provocato negli anni? Il deperimento delle risorse in mano ai comuni. Io qui do un dato che chiarisce bene questo fatto. Dal 2010 al 2018 i comuni hanno aumentato le tasse locali di 8,7 miliardi, cioè i cittadini hanno pagato in più complessivamente in Italia 8,7 miliardi di tasse comunali. Nonostante questa entrata di 8,7 miliardi, i comuni nel 2017 avevano a disposizione 6 miliardi in meno di quello che avevano nel 2010. Cosa significa questo? Che noi abbiamo pagato 8,7 miliardi di tasse locali non per aumentare i servizi, migliorarli, espanderli, renderli più efficienti, ma addirittura i comuni, quegli 8,7 miliardi più altri 6 miliardi che già avevano, sono evaporati. E dove sono finiti? Sono finiti per dare stabilità ai conti pubblici nazionali, per seguire le regole dei vincoli europei. Cioè, quello che è avvenuto in questi 20 anni è una continua sottrazione di risorse ai comuni per spingerli da una parte a privatizzare tutto, dall'altra per metterli con le spalle al muro e renderli ricattabili. Questo è il motivo, e qui mi fermo, per cui o si interrompe questa trappola del debito, e l'iniziativa che raccontava prima Maria Francesca, che poi verrà compiutamente affrontata nella prossima trasmissione di sabato, quell'iniziativa del Comune di Napoli è esattamente importante, perché va in questa direzione, cioè non mette il Comune di Napoli non più nella parte del suddito che, quando va bene, chiede qualche soldo in più ai livelli superiori, ma mette il Comune di Napoli come il comune che rappresenta i suoi abitanti e che dice: con questi meccanismi io oggi non posso garantire diritti fondamentali alla comunità che amministro, e quindi questi meccanismi vanno interrotti. È la strada che ha preso Napoli e che stiamo cercando di diffondere in tutti i comuni d'Italia, perché se Napoli viene lasciato solo rimane l'eccezione che conferma la regola. Se nel comune di Napoli si uniscono 10, 100, 1000 altri comuni, allora si può aprire una battaglia molto forte tra le comunità locali e il governo, per dire che sono gli enti locali il primo luogo della democrazia di prossimità, il primo luogo di garanzia dei diritti fondamentali, e che quindi devono avere risorse sufficienti e non comprimibili, perché il loro compito è garantire esattamente questi diritti. Allora, grazie. Quindi, se capisco bene, c'è stato un insieme di riforme a partire dall'Unione Europea, ma fino ad arrivare a una riforma costituzionale che c'è stata in Italia, di cui nel 2011, di cui peraltro si è parlato molto poco, che ha impedito quello che era sempre stato un comportamento normalissimo dei soggetti pubblici, cioè indebitarsi per poter garantire dei servizi. Nel caso nostro, Marco ha menzionato anche il patrimonio, che è una risorsa fondamentale, che una volta venduto l'abbiamo perso per sempre, per aver incassato qualcosa una volta sola. Invece, se assicurato all'uso pubblico, può continuare a garantire alla cittadinanza degli spazi dove poi si svolge la vita quotidiana in modo accessibile a tutti e a tutte, non ovviamente legato a un consumo, a una tariffa e quant'altro. Quindi, appunto, mi interessa parlare di cosa si può fare, nel senso che ovviamente nel momento in cui c'è stata una riforma a livello europeo, c'è stata una riforma costituzionale, che blocca la spesa, noi ci stiamo muovendo in parte politicamente, in parte nei margini giuridici che ci sono rimasti, che sono appunto quelli del rifiuto del debito che noi definiamo ingiusto o illegittimo, poi ognuno lo definisce in un modo. Vorrei chiedere a Marco se può spiegarci perché alcuni debiti noi li definiamo ingiusti o illegittimi e quindi tendiamo a rifiutarli, e quindi poi in che cosa consiste questa campagna di, diciamo, che parte un po' dalla delibera di Napoli, dove c'è stato terreno fertile, ma che poi si porterà avanti in tutta Italia. Sì, diciamo che intanto cos'è un debito illegittimo o ingiusto, diciamo, sono categorie che possono anche espandersi fra loro. In buona sostanza, il ragionamento da cui si parte è che il debito, contrariamente a quello che normalmente la narrazione dominante racconta, non è mai un rapporto tra uguali. Cioè, la narrazione dominante dice che il debito, perché il debito va onorato, perché è un patto preso fra due persone o tra due soggetti che sono formalmente uguali, per cui se uno presta denaro all'altro è chiaro che l'altro è in obbligo alla restituzione. Questo è quello che ovviamente avviene fra soggetti formalmente uguali, ma in realtà sia nella storia ma anche nell'attualità, nei rapporti istituzionali o comunque fra istituzioni e mondo bancario, il debito è sempre un rapporto di potere, un rapporto di potere fra chi detiene il denaro e su questo può fare profitti prestandolo, e chi quel denaro non lo detiene e quindi è costretto sostanzialmente a cercarlo da chi ce l'ha e a sottostare ovviamente a delle condizioni che in particolare sono, per esempio, il pagamento degli interessi. Anche qui do una cifra che pochi ricordano sul debito pubblico nazionale. Noi oggi abbiamo 2.400 miliardi di debito come paese, come Italia. Su quel debito, dal 1980 ad oggi, abbiamo già pagato 4.000 miliardi di interessi e il debito pubblico rimane 2.400 miliardi. Cioè, il buon senso direbbe, se io ho un debito di 2.400 miliardi e ho pagato 4.000 miliardi, la logica vorrebbe che diciamo, il significato di questa operazione è che io ho pagato sia il debito sia gli interessi. No, noi abbiamo già pagato 4.000 miliardi di interessi e il debito continua a essere di 2.400 miliardi. Perché? Perché ogni anno noi, per pagare gli interessi, ci indebitiamo e l'anno successivo, oltre agli interessi maturati, dobbiamo pagare anche gli interessi sul sovraindebitamento che abbiamo fatto l'anno precedente. Questa è una catena per cui io normalmente la dico con una battuta: quando qualcuno in televisione, politico, opinionista, dice, esulta perché il PIL è passato dallo 0,8 allo 0,9, bisognerebbe andare a prenderlo a casa, riportarlo in televisione e fargli dire la verità. Qual è la verità? Questo valeva prima della pandemia, immaginatevi ora. La verità è che l'Italia, per essere l'anno prossimo meno indebitata di quest'anno per il meccanismo degli interessi, dovrebbe avere un PIL del più 4%. L'anno successivo, per essere meno indebitata dell'anno prossimo, dovrebbe avere un PIL più 4%. Più 4% non lo si sarebbe fatto per i prossimi decenni. Adesso è arrivata addirittura la pandemia, per cui il PIL di quest'anno, le ipotesi che si fanno, sarà intorno al meno 9-10%, altro che più 4%. È evidente che questo diventa un meccanismo che ogni anno fa fare un giro di più intorno al collo nostro della corda che alla fine rischia di impiccarci. Allora, cosa significa interrompere questa catena? Significa dire: andiamo a vedere perché i debiti sono stati fatti, con chi sono stati fatti, per quali finalità sono stati fatti. E allora si può scoprire che tutta una serie di cosiddetti debiti tali non sono perché la giurisprudenza internazionale dichiara odiosi, dichiara ingiusti o dichiara illegittimi tutti quei debiti che sono stati fatti non per servire l'interesse generale, ma per servire interessi particolaristici, oppure che hanno provocato addirittura un danno alle comunità amministrate. Faccio un esempio, l'esempio più facile: tutti i debiti fatti per il settore militare sono considerati debiti odiosi, perché sono fatti per mettere in campo merci, strumenti e attività che sono in diretto contrasto con il diritto alla vita, il diritto alla salute, eccetera, eccetera. Ma diciamo, tutte le politiche di austerità fin qui applicate potrebbero essere, tra virgolette, accusate di aver prodotto debito ingiusto. E l'emergenza sanitaria in cui siamo immersi, alcune regioni sono state pesantemente immerse, lo dimostra. Le politiche di austerità hanno prodotto debiti che hanno avuto come risultato il collasso dei sistemi sanitari, cioè hanno pregiudicato il diritto alla vita e alla salute di intere comunità. Quindi si tratta di cominciare a dire, paradossalmente, di prendere per vero una parte della narrazione dominante che dice che il debito è pubblico, cioè di tutti. Bene, allora se il debito è pubblico, tutti dobbiamo conoscerlo, tutti dobbiamo indagarlo e tutti dobbiamo decidere che facciamo di quel debito. E allora il debito che è ingiusto va cancellato, il debito che è legittimo, cioè che è stato fatto per l'interesse generale, si tratta di ragionare con i creditori sui tempi di pagamento, perché anche le scadenze di pagamento non possono mai pregiudicare la garanzia dei diritti fondamentali delle persone. In questa fase di pesantissima emergenza sanitaria, sociale ed economica, è evidente che i primi passi che vanno fatti, e qui vengo alle proposte nate dalla delibera di Napoli e che stiamo cercando di estendere a tutti gli enti locali, la prima cosa che va chiesta è la sospensione del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio. Curioso che in questi mesi di emergenza l'Unione Europea ha sospeso il patto di stabilità per gli Stati, ma il governo italiano non ha sospeso il patto di stabilità e il pareggio di bilancio per i comuni. Cioè, paradossalmente, mentre i governi in questa fase sono liberi di utilizzare le risorse per rispondere all'emergenza economica, sanitaria e sociale, i comuni continuano a essere ingabbiati dentro vincoli, quando sono esattamente i comuni in questo momento quelli che devono rispondere in maniera più immediata alle varie emergenze che le proprie comunità stanno affrontando. Secondo elemento, quindi chiedere da subito la sospensione del patto di stabilità e del pareggio di bilancio. Secondo elemento, lo stesso governo, con la legge mille proroghe approvata a fine gennaio, ha inserito, perché si è reso conto che i comuni sono al totale collasso, ha inserito un articolo di legge, per la precisione l'articolo 39, che dice che tutti i debiti dei comuni vengono accollati allo Stato, il quale Stato poi tratterà coi creditori, in particolare Cassa Depositi e Prestiti, per ridurre drasticamente gli interessi di quei debiti. Quella norma è stata approvata, peccato che non è stato approvato il decreto di applicazione, per cui c'è una norma esistente di cui i comuni continuano a non beneficiare perché il governo nel frattempo non ha approvato il decreto di attuazione. Allora, secondo punto, esattamente quello: chiedere che venga immediatamente approvato il decreto di applicazione in modo che i comuni possano alleggerire immediatamente il proprio debito e poter già dal bilancio 2021 poter utilizzare tutte le risorse liberate. Terzo elemento: in questa fase di emergenza economica le imprese riceveranno fondi con totale garanzia da parte dello Stato, cioè riceveranno finanziamenti a tasso zero garantiti dall'ente pubblico. Ora potremmo discutere questo, perché c'è impresa e c'è impresa, ci sono imprese addirittura che hanno le sedi legali, parlo delle grandi multinazionali, hanno sedi legali in paradisi fiscali e riceveranno finanziamenti a tasso zero da parte dello Stato. Ci sono grandi imprese che hanno riserve di soldi e non necessitano. Diciamo che quella norma avrebbe dovuto essere applicata soprattutto alle piccole e medie imprese, ma non è questo l'argomento di oggi. Ma perché le imprese possono ricevere finanziamenti a tasso zero e i comuni che perseguono l'interesse generale, quindi non il profitto privato, non possono ricevere anche loro in stretta analogia finanziamenti a tasso zero? Quindi la terza richiesta è che il governo si attivi presso Cassa Depositi e Prestiti perché per tutto il biennio 2020-2021 i comuni possano fare investimenti ricevendo finanziamenti a tasso zero. Quarta richiesta: esiste da sempre un fondo che si chiama di solidarietà comunale, che comporta che, diciamo, comuni che hanno bilanci floridi mettano a disposizione parte dei soldi in più che hanno per comuni che sono in difficoltà economica. Ora, questo meccanismo in realtà ha prodotto più ingiustizie e più diseguaglianze fra le comunità territoriali che non invece una equiparazione o una maggiore uguaglianza, ma è un fondo che esiste. Allora, la proposta qual è? È quella che quel fondo venga chiamato Fondo Nazionale di Solidarietà Comunale, che venga quindi messo in piedi dallo Stato per garantire a tutti i comuni tutte le risorse che sono necessarie, sia in questa fase di emergenza dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, sia per far ripartire le comunità territoriali, magari, diciamo, provando a costruire un altro modello sociale territoriale che sia socialmente che ecologicamente orientato. Per fare tutto questo servono moltissime risorse. Quelle risorse devono essere messe dentro questo fondo e devono garantire finanziamenti certi a tutti gli enti locali. Come si trovano quei soldi? Beh, quei soldi si trovano tenendo conto di un'altra bugia della narrazione dominante, che dice sempre: i soldi non ci sono, i soldi c'è il debito, c'è il patto di stabilità, i soldi non ci sono. In realtà nel nostro paese i soldi ce ne sono tanti, io oserei dire che ce ne sono perfino troppi. L'unico problema è che stanno tutti nelle mani sbagliate o che sono utilizzati non per servire l'interesse generale, ma per servire l'interesse particolare. Allora, perché non ipotizzare una tassa sui grandi patrimoni che vada a finanziare questo Fondo Nazionale di Solidarietà Comunale, che permetta quindi agli enti locali di avere le risorse necessarie? Cioè, sono tutta una serie di misure che permettono, se vengono applicate, di consentire agli enti locali di esercitare il proprio ruolo di ente garante della protezione delle comunità territoriali, ente garante dei diritti fondamentali delle comunità territoriali, e permette anche, laddove ci siano le condizioni, di costruire dal basso, attraverso una gestione partecipativa di queste risorse, un altro modello sociale territoriale, anche perché la pandemia ci insegna che il virus non è arrivato da Marte, ma che il virus è una delle tante manifestazioni di una crisi climatica che è in atto da anni, e quindi occorre riconvertire le attività economiche, le attività produttive, nel senso di una trasformazione ecologica dell'intera economia. Faccio anche qui un esempio banalissimo: quanti soldi sono stanziati per le grandi opere contro le quali tutte le comunità territoriali si oppongono da sempre, in alcuni casi addirittura per decenni, come il TAV Torino-Lione? Bene, perché quei soldi non vengono presi e quindi si annullano le grandi opere che sono contro la volontà, tra l'altro producono anche tanto debito, ma sono contro la volontà e l'interesse generale delle comunità, e invece non si prendono questi soldi per mettere in piedi un piano di centinaia di migliaia di piccole opere diffuse sui territori per garantire il riassetto idrogeologico di tutto il territorio italiano? Questo è solo un esempio, ma diciamo, la strada per poter fare tutto questo è innanzitutto liberare i comuni dalla gabbia del debito per permettere alle comunità locali di discutere, magari pure di litigare, sulla destinazione di quelle risorse. Oggi, senza rompere la trappola del debito, qualsiasi idea viene messa in campo, qualsiasi progetto viene rivendicato, diventa una battaglia quanto assolutamente inefficace, perché stiamo facendo i conti senza l'oste e l'oste continua a tenersi la ricchezza collettiva dentro la propria cassaforte. Grazie, ti faccio un'ultima domanda io, poi passiamo alle domande che stanno arrivando, diciamo, dal pubblico. Mi interessava approfondire questo discorso della Cassa Depositi e Prestiti, perché mi sembra che comunque rappresenti un'opportunità da un lato per i comuni, soprattutto da, diciamo, per lo scopo per cui è nata, e d'altra parte, insomma, raccoglie i nostri risparmi, quindi magari se vuoi fare un passaggio in più su questo, cioè in che modo potrebbe esserci utile. Sì, la Cassa Depositi e Prestiti è uno dei paradossi di quest'ultimo decennio. Brevissimamente, che cos'è la Cassa Depositi e Prestiti? Nasce nel 1850 come ente pubblico che raccoglie il risparmio dei cittadini. Oggi è il risparmio, lo chiamiamo risparmio postale, cioè qualsiasi cittadino ha un libretto di risparmio postale o un buono fruttifero postale, cioè mette i suoi risparmi alle poste. Dal 1850 al 2003 che cosa succedeva di quel risparmio? Quel risparmio veniva garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti, cioè il cittadino mettendo lì i soldi, se li ritrovava il giorno che li avesse richiesti perché voleva utilizzarli, ma nel frattempo quella massa di denaro serviva a un unico scopo: finanziare gli investimenti dei comuni a tassi agevolati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se in questo paese c'è stato uno straccio di stato sociale, cioè sono state fatte scuole, ospedali, asili nido, eccetera eccetera, cioè opere pubbliche, è grazie esattamente a questo meccanismo per cui il comune accendeva un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, quindi utilizzando il risparmio dei cittadini per poter avere finanziamenti a tasso agevolato e fare opere che interessavano alla collettività. Perché tutto questo finisce? Tutto questo finisce perché siamo negli anni 90, 80-90, dove parte la stagione delle grandi privatizzazioni e in particolare della privatizzazione del sistema bancario e finanziario, e le banche dicono: ma noi siamo totalmente esclusi da un mercato gigantesco che è quello degli investimenti degli enti locali, perché gli enti locali potevano finanziarsi solo con la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi la legge Amato del 90 inizia facendo finta di dare maggiore autonomia agli enti locali, dicendo che da quel momento i comuni non sono più obbligati a finanziarsi solo con la Cassa Depositi e Prestiti, ma possono reperire le risorse anche nel sistema bancario, che nel frattempo ovviamente era stato privatizzato. Cosa succede? Succede che però Cassa Depositi e Prestiti continua a prestare a tassi agevolati. Le banche ovviamente prestano a tassi di mercato, e quindi solo un sindaco incosciente o complice delle banche avrebbe cercato finanziamenti dalle banche che costavano di più al comune amministrato che non chiedendoli a Cassa Depositi e Prestiti. Occorre quindi intervenire, se no le povere banche come fanno? E quindi nel 2003 si decide di trasformare Cassa Depositi e Prestiti in una società per azioni, cioè diventa un ente privatistico. Al suo interno addirittura entrano nel capitale sociale le fondazioni bancarie, che erano i massimi azionisti delle banche, quindi è come se fosse stato portato in casa di Cassa Depositi e Prestiti i maggiori azionisti dei rivali di Cassa Depositi e Prestiti. Da quel momento Cassa Depositi e Prestiti presta agli enti locali a tassi di mercato, attualmente addirittura a tassi che potremmo dire da usura, perché siccome i mutui degli enti locali sono hanno una scadenza ventennale, trentennale, oggi ci sono enti locali che pagano, quasi tutti, pagano tassi di interesse alla Cassa Depositi e Prestiti del 4-5%, quando il costo del denaro oggi è vicino allo zero. Quindi si tratta di una usura legalizzata, ma soprattutto Cassa Depositi e Prestiti oggi che cosa fa? Oggi si propone agli enti locali, non per finanziare opere, fa anche quello, ma ovviamente a tassi di mercato, ma addirittura per favorire la svendita del patrimonio pubblico, per favorire la privatizzazione dei servizi pubblici e la fusione di questi con altri, con i servizi di altre città, per fare le cosiddette grandi multi-utility. Per cui il paradosso è che mentre il risparmio postale dei cittadini fino al 1990 era utilizzato per il benessere delle comunità territoriali, oggi addirittura il risparmio dei cittadini viene utilizzato per favorire l'esproprio di ricchezza collettiva e di diritti dei cittadini. Questo è uno dei motivi per cui su Cassa Depositi e Prestiti occorre aprire una battaglia gigantesca, e come Attacchi Italia abbiamo già preparato una proposta di legge di iniziativa popolare, poi vedremo se e quando diventerà una campagna, per trasformare radicalmente Cassa Depositi e Prestiti. Do solo l'immagine di quello che potrebbe essere. Immaginate una comunità territoriale dove col bilancio partecipativo si decidono quali sono le opere prioritarie. Quindi sono i cittadini che decidono se serve un asilo nido, se serve un parco, se serve un ospedale, e grazie al risparmio dei cittadini di quella comunità ci sono i soldi in una Cassa Depositi e Prestiti decentrata territorialmente e autogovernata dalle comunità locali. I cittadini decidono le opere e sono gli stessi cittadini a finanziarle attraverso il loro risparmio postale. Questo innescherebbe un circolo virtuoso per cui i cittadini decidono insieme, i cittadini finanziano insieme, e quindi i cittadini controlleranno sia i tempi, sia la qualità, sia che non ci siano sprechi e che le cose vengano fatte secondo le decisioni che sono state prese dall'intera comunità. Cioè si creerebbe un circolo virtuoso per cui le comunità smettono di essere una somma di individui atomizzati e tornano a essere invece una comunità cooperante, solidale e collettiva. Grazie. Allora, noi, come sai, siamo una radio che si collega tra Napoli e Milano, e quindi ovviamente anche ci sono punti di vista diversi tra quello che arriva da chi ascolta. Quindi proviamo un attimo a fare un punto. C'è chi mi dice: secondo me comuni che hanno le casse floride non se ne trova tante, perché il patto di stabilità le erosi da tanto. Ma d'altra parte mi chiedono di domandarti: assodato che ci sia un taglio di risorse generalizzato che ha colpito ogni luogo, a cosa attribuisci la residua sperequazione di risorse e quindi di erogazione per i servizi pubblici tra la media dei comuni del nord e quelli del sud? Quindi ci sono queste fermo restando che è chiaro che stiamo parlando di un fenomeno generalizzato, però ci sono delle differenze nord-sud, e come mai siete questi tagli, come insomma hai detto anche tu, ci sono stati verticali, diciamo, generali? Sì, questa è una domanda interessante e la risposta sorprenderà, perché in realtà in questi anni c'è stato un drenaggio di risorse da parte del nord sul sud. Cosa voglio dire con questo? Basta vedere per esempio tutta la questione dell'autonomia regionale differenziata. Dovevano essere stabiliti già dal 2011, no, forse addirittura prima, adesso non vorrei dire una stupidata sulla data, ma diciamo da molti anni, i cosiddetti livelli essenziali. Questi livelli essenziali non sono stati stabiliti, e quindi ogni anno il fabbisogno di un comune viene deciso sulla base della spesa storica. Cosa significa? Significa che Reggio Emilia, che storicamente ha speso, facendo delle cose meravigliose, nel campo degli asili nido, il fabbisogno di Reggio Emilia sugli asili nido l'anno prossimo è calcolato come molto alto. Cosenza non ha asili nido. Storicamente ha speso zero sugli asili nido. Il fabbisogno di Cosenza l'anno prossimo sugli asili nido viene calcolato sulla spesa storica, perché non sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP, e quindi ogni anno i comuni del nord che hanno una spesa storica maggiore viene riconosciuto a questi comuni un fabbisogno diciamo proporzionale alla spesa storica. Lo stesso vale per i comuni del sud. Questo allarga drammaticamente la diseguaglianza fra i comuni, per cui chi va a vedere il fabbisogno di asili nido scopre che Reggio Emilia ha un fabbisogno di asili nido gigantesco e che Cosenza non ha un fabbisogno di asili nido, mentre la realtà è che Reggio Emilia ha asili nido conosciuti in tutto il mondo e non ha praticamente liste d'attesa, a meno che non siano arrivate negli ultimi anni, e Cosenza non ha asili nido. Cioè, quello che è successo in questi anni, facendo ovviamente la tara su anche efficienza storica, diciamo, dei municipi del nord maggiore rispetto all'efficienza storica dei municipi del sud, ma anche perché tutti sappiamo come gran parte del sud, oramai invece si è esteso completamente anche a tutto il nord, è stato gravato per decenni il controllo mafioso rispetto alla gestione dei servizi, quindi non considerando quello, di fatto in realtà quello che sta succedendo negli ultimi decenni è un continuo travaso di risorse verso le comunità, diciamo, di livello medio-alto del centro-nord rispetto alle comunità del sud. Allora, anche lì, una delle cose che va fatta immediatamente è che vengano definiti i livelli essenziali delle prestazioni, che è un obbligo di legge, ma che non è mai stato fatto. Se si decidessero i livelli essenziali prestazioni, si stabilirebbe che indipendentemente da dove si trova un comune, deve garantire un certo numero di servizi a qualsiasi abitante del suo territorio. E a quel punto si scoprirebbe qual è il fabbisogno dei comuni più poveri e qual è il fabbisogno dei comuni che sono meno poveri. Oggi questo fabbisogno è paradossalmente in favore delle comunità più ricche. Ti ringrazio perché... Aggiungere, i tagli hanno toccato tutti, non sto dicendo che il nord, cioè, diciamo, l'obiettivo, se l'obiettivo è quello di mettere con le spalle al muro i comuni, i tagli sono stati anche pesanti verso le amministrazioni del nord, anche perché le amministrazioni del centro-nord hanno costruito nel tempo servizi che, se io metto sul mercato, sono molto più remunerativi. Per capirci, se io decido di mettere sul mercato il servizio idrico, cercherò di mettere sul mercato il servizio idrico laddove c'è una gestione storicamente redditizia, per cui cosa faccio? Metto sul mercato il servizio idrico del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Veneto, e l'acquedotto pugliese, che pur essendo al sud ha una gestione storica molto efficiente, difficilmente i privati sono interessati in questo momento a prendere in mano il servizio idrico di territori dove le infrastrutture idriche vanno costruite praticamente da zero. Meglio andare dove le infrastrutture idriche, diciamo, storicamente funzionano, perché ho pochissimo da investire e moltissimo da portare a casa in quanto a dividendi e profitti. Ok, sì, grazie, no, ti dicevo grazie perché questo è un tema che anche noi spesso è utile affrontare con questo livello di precisione, perché c'è difficoltà a tematizzarlo spesso. Ti faccio un'altra domanda, mi chiedono, oltre all'iniziativa di Napoli, se c'è qualche esempio pratico intrapreso da altre amministrazioni sulla questione del debito ingiusto e illegittimo, o Napoli è un'eccezione? Diciamo che Napoli per ora è l'eccezione, noi speriamo che diventi la normalità. In questi giorni moltissimi comitati, sia di ATTAC, sia la rete dei comitati per l'audit sul debito locale, ma anche la rete nazionale beni comuni, diciamo tutti i vari movimenti che stanno lavorando su e hanno al centro della loro attenzione l'autogoverno delle comunità locali, stanno spingendo tutte le amministrazioni ad andare in quella direzione. È chiaro che non è semplice, solo per dare un esempio di come molti sindaci stanno invece reagendo a questa situazione di emergenza dei comuni, mi piace riportare cosa ha dichiarato il sindaco Nardella di Firenze una settimana fa, cioè mentre Napoli prendeva una strada, il sindaco Nardella cosa ha detto? La nostra città rischia di finire sul lastrico, e fin qui siamo tutti d'accordo. Io farò di tutto per salvare la città e quindi farò debito per trovare le risorse, mettendo a garanzia di quel debito tutto il patrimonio edilizio comunale. Cioè il sindaco Nardella pensa di salvare la città mettendo in mano alle banche monumenti, musei, teatri, sedi amministrative, sedi politiche. La domanda è: fatta questa operazione, che cosa si è salvato se tutta la città è in mano alle banche? La risposta mi sembra retorica. Allora il problema che abbiamo di fronte è questo, che i comuni sono ricattati, ma non, la gran parte degli amministratori locali è cresciuta nella cultura non del io sono il rappresentante della mia comunità territoriale e quindi insieme alla mia comunità territoriale mi difendo dal ricatto e cerco di aprire una strada alternativa. Spesso oramai gli amministratori sono persone cresciute con l'interiorizzazione della cultura neoliberale, per cui fanno i sindaci, per esempio, molti sindaci fanno gli amministratori pubblici essendo convinti in cuor loro della maggiore efficienza del privato rispetto al pubblico, oppure fanno i sindaci pensando che il mestiere del sindaco è quello di mettere sul mercato i servizi, perché il privato è più efficiente. Io lo dico con una battuta: nel pianeta c'è posto per tutti, ma se uno pensa che è meglio il pubblico che il privato, non dovrebbe poter accedere alla carica di sindaco, perché chi accede alla carica di sindaco deve essere chi pensa che il pubblico può funzionare e che il pubblico normalmente funziona meglio del privato, anche solo perché hanno due obiettivi differenti. Il comune ha l'obiettivo di garantire servizi a livello universale nel senso della propria comunità, il privato ha l'obiettivo di fare profitti, e quindi sono, diciamo, due obiettivi completamente diversi. Allora, secondo me, oggi è complicato perché non ci sono tantissimi sindaci che si percepiscono come rappresentanti della comunità, per quello che sono le comunità, che sono quelle vittime di espropriazione, che devono costruire mobilitazione dal basso per diciamo incrociare i sindaci permeabili e per imporre ai sindaci impermeabili la necessità di opporsi alla trappola del debito. Sì, a me sembra fondamentale questo invito a fare rete tra le città, nel senso che tanto spesso quello che succede in una città, quello che insomma si è riuscito a portare avanti per tante ragioni legato al movimento che c'è stato a Napoli, alla giunta del comune di Napoli, deve valere da precedente, e può valere da precedente, perché ovviamente poi è più semplice per altre comunità affermare delle cose nel momento in cui è stato già fatto in un altro comune. Quindi sì, credo sì, appunto, che sia fondamentale questo invito al fare rete tra le città. Soprattutto, sì, se posso, prego. È che quello che dobbiamo evitare è che i risultati siano delle amministrazioni e non delle comunità, perché il problema poi si ripresenta nel momento in cui le amministrazioni cambiano. Cioè, se dei risultati sono conseguiti grazie alla mobilitazione sociale delle comunità territoriali, per fare l'esempio, se domani il sindaco non è più De Magistris, ma c'è la mobilitazione territoriale, ciò che si è conquistato grazie anche alla permeabilità della giunta De Magistris rimane anche se arriva un'amministrazione impermeabile. Se invece tutto è lasciato alla più o meno capacità e più o meno al fatto che c'è l'amministratore illuminato, passa l'amministratore e non sedimenta i risultati nella comunità. Perché? Perché quando quello non sarà più l'amministratore, le comunità si ritrovano di nuovo espropriate. Per questo che le conquiste vere si fanno se si fanno tutti insieme dal basso, perché si rendono gli amministratori come strumento di una conquista e non come imprescindibili per questa conquista. Sì, diciamo è fondamentale che diventi patrimonio condiviso. In questo senso noi anche per tanti temi legati ai beni comuni ci siamo molto spesso rivolti anche all'ANCI, che è l'associazione dei comuni, per provare a far convergere queste spinte dall'alto e dal basso, con l'unico scopo di provare a creare un cambiamento a partire dai territori, ma che poi riguardi tutta Italia, appunto, e non lasci differenze politiche o territoriali. Sì, ti faccio un'ultima. Su questo, scusa, prego. Se posso, giusto secondo me coinvolgere l'ANCI su tutto, poi secondo me dovrà anche venire il momento in cui le amministrazioni, diciamo, che puntano a un altro modello sociale e a un'alternativa, credo che dovrebbero cominciare ad associarsi in qualcosa di esterno e alternativo all'ANCI, perché purtroppo l'ANCI è da decenni un carrozzone dove conta di più l'appartenenza partitica dei sindaci che non il loro essere sindaci. Allora ti faccio l'ultima domanda, almeno per ora, poi non so se nel frattempo arriva altro. Cioè, perché non facciamo stampare moneta all'Unione Europea come via d'uscita dalla crisi? Anche, insomma, la persona che ci ha scritto indica come unica, diciamo, più probabile o possibile uscita da questa crisi come il reddito universale di base. Però, diciamo, ovviamente serviranno le risorse, quindi perché non potrebbe essere una possibilità quella di far stampare moneta all'Unione Europea? Beh, io la considero, quindi sono d'accordo con chi ha posto questa domanda, sia su chi dovrebbe mettere i soldi e sia sulla destinazione di questi. Diciamo, tutto quello che sta succedendo a livello di Eurogruppo è paradossale. Intanto dà l'idea di come l'Unione Europea non abbia chiaro la profondità della crisi, però siccome non sono studenti alle prime armi, ovviamente ci sono delle scelte dietro, soprattutto perché non sembra non comprendere la profondità della crisi, perché continua a fare proposte irrisorie dal punto di vista delle risorse e tutte interne alla logica del debito, che oramai diventerà invece insostenibile. La domanda potrebbe essere posta così: oggi la Banca Centrale Europea per statuto non può finanziare direttamente gli stati. Questa è una delle cose, diciamo, uno dei pilastri della costruzione neoliberale dell'Unione Europea da Maastricht in avanti, ed è l'unica banca centrale del mondo che non può fare questo. Cioè, mentre noi discutiamo all'Eurogruppo, la Federal Reserve degli Stati Uniti sta finanziando con migliaia di miliardi gli Stati Uniti, la Bank of England sta finanziando la Gran Bretagna, la Banca del Giappone sta facendo altrettanto. E la cosa curiosa è che si è abolito il patto di stabilità per gli stati in mezza giornata, quindi quello che sembrava un tabù intoccabile non rilassiamoci, tornerà a essere un tabù intoccabile fra 6 mesi, ma da un giorno con l'altro si è sospeso il patto di stabilità. Allora uno dice, bene, abbiamo sospeso il patto di stabilità perché siamo dentro un'emergenza. Dove troviamo le risorse? L'unica possibilità è ricorrere alla Banca Centrale Europea, e si può fare in due modi, uno è addirittura paradossale. Uno è quello che suggeriva chi ha fatto la domanda, cioè sospendiamo l'articolo dello statuto della Banca Centrale Europea che dice che la Banca Centrale Europea non può finanziare direttamente gli stati. Così come abbiamo sospeso il patto di stabilità, sospendiamo lo statuto, quell'articolo dello statuto per 3 anni e permettiamo alla Banca Centrale Europea di finanziare direttamente gli stati. La cosa paradossale è che si potrebbe fare questa cosa anche senza cambiare, sospendere l'articolo dello statuto. Perché? Perché l'articolo 123,2 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea dice che la Banca Centrale Europea, così come finanzia le banche private, può finanziare istituti creditizi pubblici. Allora basterebbe che gli stati europei, insieme meglio, ma anche ciascuno da solo, istituisse una cosa chiamata Fondo di Emergenza Sanitaria, come istituto creditizio pubblico, potrebbe ricevere direttamente i soldi dalla Banca Centrale Europea. Perché queste alternative non vengono considerate? Perché se io oggi faccio vedere ai cittadini come potrebbe funzionare la Banca Centrale Europea, diventa molto più complicato domani dire di nuovo ai cittadini che il patto di stabilità è indiscutibile, che la Banca Centrale Europea deve finanziare solo il sistema bancario e non anche il pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, se i cittadini, se togliamo la cortina fumogena, la nebbia in cui abbiamo avvolto la consapevolezza dei cittadini rispetto al funzionamento dell'Unione Europea, e per 2 o 3 anni vedono un funzionamento alternativo, poi ripristinare le gabbie diventa molto più complicato, perché a quel punto i cittadini avrebbero chiaro che dietro tutta quella nebbia ci stava un uso politico del patto di stabilità, un uso politico della Banca Centrale Europea per portare avanti le politiche liberiste e di austerità. Due parole nello specifico su cosa ha messo in campo l'Unione Europea, tanto per dire quanto è ridicolo. Ad ora l'Unione Europea ha messo in campo 3 strumenti, uno si chiama SURE, SURE in inglese, ed è una sorta di cassa integrazione, cioè una cassa integrazione europea per capirci. E hanno sbandierato di aver messo a disposizione 100 miliardi. Bene, se uno va a leggere le carte scopre che sono 100 miliardi in 10 anni per tutta l'Unione Europea. Cioè vuol dire che l'Unione Europea, di fronte all'emergenza occupazionale che è già in atto adesso, pensa di mettere a disposizione 10 miliardi l'anno per tutta l'Unione Europea. Solo per darvi l'idea, il pur insufficiente governo Conte su questa questione ha stanziato 9 miliardi. L'Unione Europea mette a disposizione 10 miliardi l'anno per tutti i paesi dell'Unione Europea. Secondo strumento, la Banca Europea degli Investimenti, lì hanno detto si tirerà fuori 200 miliardi. Non sono soldi né che ci sono ora né che sono spendibili subito. Qual è il meccanismo? Il meccanismo è: gli stati mettono 25 miliardi di garanzia e la Banca Europea degli Investimenti, sulla base di quelle garanzie da 25 miliardi, contano nel tempo di recuperare sui mercati finanziari qualcosa come 200 miliardi, quindi non c'è nessun euro spendibile oggi, ma è tutta, diciamo, un'ipotesi. Il terzo strumento è quello del MES, se ne è ampiamente dibattuto, Meccanismo Europeo di Stabilità, che è una trappola ovviamente gigantesca, perché il MES attiva aiuti, quando un paese chiede l'attivazione di aiuto, quindi chiede i soldi del MES, il MES propone i famosi memorandum, cioè l'obbligo di una serie di riforme strutturali, che poi vogliono dire sempre privatizzazioni, taglio della spesa pubblica, eccetera, eccetera. Abbiamo visto in Grecia come ha operato bene il MES. Questa volta dicono il MES sarà senza condizioni, ma bisogna sempre andare a leggere le carte, non solo ascoltare le conferenze stampa del Presidente del Consiglio. Se andiamo a leggere le carte, questa volta sono in inglese, quindi giusto per renderle ancora un po' più complicate, questa volta il MES senza condizioni riguarda solo le spese sanitarie, a cui ciascun paese può accedere per il 2% del proprio PIL, cioè vuol dire che l'Italia può chiedere 36 miliardi. Attenzione, senza condizioni in accesso, cioè in entrata. L'Italia può chiedere questi soldi senza condizioni. Nel momento della restituzione, il paese che richiede questi soldi si impegna a mettere in atto tutta una serie di riforme per sistemare i propri conti. Quindi è una trappola quasi peggiore, perché è come il formaggio per il topolino: l'accesso non comporta barriere, dopodiché quando uno, il topolino, si è preso il formaggio, la trappola si chiude e per uscire il topolino deve garantire una serie di riforme, sappiamo quali. Allora, un'ultima cosa, lampo. Un altro tema che ci stiamo ponendo con molto interesse a Napoli, ma ovviamente persino a livello comunale ha relativamente senso, ma molto più senso a livello nazionale, è quello della progressività della politica fiscale. Cioè, noi sappiamo, insomma, la Costituzione ci dice che la tassa non dovrebbe essere proporzionale al patrimonio, cioè, ma dovrebbe crescere man mano che cresce, cioè la percentuale dedicata alla tassa dovrebbe crescere man mano che cresce il patrimonio. E molto spesso, appunto, stiamo osservando che questo non accade, o comunque potrebbe accadere di più. Ecco, questo potrebbe essere addirittura, ovviamente, un tema di cui si è parlato molto anche in relazione all'argomento che citavo prima del reddito di quarantena e quello della patrimoniale, che ovviamente suona come il diciamo l'esempio per eccellenza, ma insomma l'importanza in generale di lavorare anche e soprattutto a livello nazionale sulla politica fiscale. No, no, questo è un tema centrale, ed è centrale sia a livello nazionale che a livello comunale, perché anche dentro i comuni la tassazione si è progressivamente spostata da progressiva a regressiva, cioè mentre fino a qualche, diciamo a 20 anni fa, a livello nazionale dobbiamo tornare a 40 anni fa, ma a livello comunale almeno 20-25 anni fa, tutte le imposte erano progressive, secondo il principio ovviamente sancito dalla Costituzione, ma assolutamente di buon senso, che chi più ha più deve mettere per garantire servizi a tutta la collettività. Tra l'altro, su questo CADETEM, cioè il Comitato per l'abolizione del debito, dei debiti illegittimi, che è una rete internazionale ma che c'è anche in Italia, ha fatto uno studio sulla fiscalità nazionale dal 74 a oggi. Perché dal 74 oggi? Perché è dal 74 che si è modificato la direzione della fiscalità. Fino ad allora era fortemente progressiva, quindi chi più aveva più doveva mettere. Da allora che cosa si è verificato? Una progressiva diminuzione delle tasse sui ceti più ricchi, e ovviamente specularmente un aumento della tassazione sui ceti più deboli. Questo studio, per esempio, dimostra che il 13% dell'attuale debito pubblico nazionale è dovuto esattamente a questo meccanismo. Perché? Perché gli stati si sono trovati dentro questa idea della competizione internazionale, per cui l'Unione Europea è nata su una moneta, ma non è nata con una politica fiscale comune, per cui gli stati si fanno a gara per attirare i capitali, e come si fanno a attirare i capitali? Rendendosi più convenienti degli altri. Come ci si fa a rendere più convenienti degli altri? Tassandoli meno, mettendo meno norme sulla sicurezza del lavoro, mettendo meno norme di tutela ambientale, eccetera, eccetera. Quindi questa progressiva corsa al ribasso da parte degli stati per attirare i cosiddetti capitali ha comportato una riduzione delle entrate dello Stato. Ovviamente, per garantire il funzionamento della macchina statale, cosa ha dovuto fare gli stati? per recuperare quelle risorse che non entravano più dalle tasse perché i ceti ricchi ne pagavano molte meno, ha dovuto indebitarsi. Il calcolo che è stato fatto da KDTM è che queste minori entrate dovute a facilitazioni fiscali dei ceti più ricchi hanno comportato il 13% dell'attuale debito pubblico nazionale. Quindi se il debito pubblico è 2.400 miliardi, potremmo dire che quasi 300 miliardi sono dovuti al fatto che lo Stato ha deciso di favorire fiscalmente i ceti più ricchi. A cascata anche i comuni hanno sempre più applicato una tassazione di tipo non progressivo. Allora, questo è uno dei settori su cui va messo mano. Primo, perché siamo in una situazione di incostituzionalità evidente, perché la Costituzione dice esattamente che la tassazione deve essere progressiva, ma poi anche per uscire da questa logica che oggi sembra che le tasse siano la parola più brutta del mondo. Faccio una battuta: quanti sanno che durante il New Deal di Roosevelt, quindi diciamo dopo il crollo di Wall Street, quanti sanno che i ceti più ricchi degli Stati Uniti, quindi stiamo parlando del capitalismo statunitense, erano tassati al 90%. Cioè Roosevelt, diciamo presidente del modello capitalistico per eccellenza, ovviamente ha fatto il New Deal, quindi con un grande intervento pubblico dello Stato, ma la tassazione prevedeva per i ceti più ricchi degli Stati Uniti il 90% di quanto avevano dei loro utili. Oggi c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che i ricchi vanno tassati al 90%? Il problema, questo, siccome è complicato dire questo, questo ci dà l'idea di quanto siamo culturalmente arretrati rispetto a un modello keynesiano. Non stiamo parlando della rivoluzione socialista e comunista. Modello capitalistico keynesiano prevedeva il 90% di tassazione dei ricchi. Oggi questa cosa sembra come per un cristiano bestemmiare in chiesa. Questo ci dice quanto la dottrina neoliberale in questi anni si è espansa ed è stata interiorizzata da moltissime culture politiche. Sì, diciamo che tanti discorsi abbiamo praticamente smesso di farli, ma invece sarebbe utile riprenderli a maggior ragione adesso. Allora, io credo che possiamo chiudere. Gregorio, non altre domande da mandarmi. Ti ringrazio molto, Marco, perché ah, ci sei, ok. Perfetto, bene, grazie a voi e a chi ci ha ascoltato e ovviamente sintonizzatevi tutti sabato, perché si continua questo ragionamento entrando più nello specifico della delibera di Napoli. Per chi non è di Napoli, ascoltatela, perché il problema è smetterla con Napoli come eccezione. Napoli deve diventare una cosa normale. Grazie a tutti. Grazie, e grazie ovviamente anche a Gregorio che ci sta assistendo, grazie alla redazione della radio. E vi ricordo appunto l'appuntamento con Vincenzo su questa radio domenica alle 16 per parlare più specificamente della delibera di Napoli. Ciao a tutti e a tutte. Buona resistenza a tutti. Ciao.